Oggi si parla di orti storici, di banche e di arte contemporanea. Quello che veniamo a raccontarvi è una cosa successa nella città di Bergamo, dove la fondazione del credito bergamasco, conosciuto come Kreberg, per i 120 anni dell'istituto si è preparato a fare un regalo alla città di Bergamo. E che regalone! Ha deciso di regalare i finanziamenti per l'ampliamento della GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. E dove voleva costruire quest'ala nuova del complesso della GAMEC? La voleva costruire in uno spazio verde, uno degli ultimi spazi verdi presenti sul suolo del centro della città di Bergamo. Si tratta dello spazio degli orti e dei giardini privati presenti a nord del Parco Suardi di Bergamo, definiti orti storici del quartiere San Tommaso. Come ha reagito il comune e l'amministrazione comunale a questa donazione, a questa proposta della banca, e come hanno reagito i cittadini residenti e non di Bergamo, ne discutiamo stasera insieme a Pietro Vertova, che è il consigliere comunale della lista dei Verdi di Bergamo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te. E parleremo sicuramente di questo problema, che è un po' la fotografia di un problema più ampio in tutto il nostro paese. Cosa è successo in comune quando si è saputo di questa iniziativa da parte del Credito Bergamasco? L'iniziativa è stata molto repentina e a sorpresa, in un certo senso, nel senso che noi ci trovavamo a discutere il piano di governo del territorio, che è il piano urbanistico più importante per modellare il futuro urbano della città. Il famoso PGT. PGT, esatto. E improvvisamente, da parte dell'assessore Pezzotta, così come del sindaco Tentore, naturalmente, è arrivata questa proposta molto netta, molto chiara. La Fondazione del Credito Bergamasco mette a disposizione 5 milioni di euro. Questi 5 milioni di euro, che sono chiaramente un regalo per la città, quindi un'occasione importantissima per la città, la fondazione chiede che vengano utilizzati per realizzare una struttura museale che la fondazione vuole regalare alla GAMEC, quanto istituzione che si occupa di arte moderna e contemporanea in città, e vuole realizzare questa struttura entro un certo periodo di tempo, quindi entro il 2011, perché deve festeggiare il proprio 120° compleanno, esatto, esattamente in un certo spazio, che è lo spazio, appunto, come si è detto, dove ci sono gli orti storici, spazio che peraltro pochi di noi anche in consiglio conoscevano, in quanto si tratta di uno spazio un pochino misterioso, in questo senso lo rende anche in un certo senso magico. E di fronte a questa proposta, evidentemente, come dire, la posizione politica non è stata semplice. Poi ex post, almeno personalmente, lo è stata di più, grazie anche alla mobilitazione dei cittadini del comitato. Però inizialmente, comunque, questo peso di 5 milioni di euro, che o si fa questa cosa o se no vengono ritirati, evidentemente è un qualcosa che, rispetto a una città che comunque investe poco, che ha poche strutture nuove, rischia di essere ricattatori, mettiamolo in questi termini. Ma una domanda, da dove vengono questi 5 milioni di euro? Beh, questi 5 milioni di euro vengono dalla Fondazione di Credito Bergamasco, che è fondazione legata alla banca. Io ci tengo a precisare, ho tenuto a precisare anche in Consiglio Comunale, che questi sono soldi dei risparmiatori del Credito Bergamasco, che sono per la maggior parte cittadini di Bergamo. La prima cosa istintivamente che mi ha fatto un po' incazzare, per come è stata posta, è che sembrava che questi soldi venissero regalati da due o tre magnati, in particolare diciamo, i dirigenti della Fondazione di Creto Bergamasco, come se in realtà non si trattasse di soldi pubblici, di soldi dei cittadini, non soldi pubblici nel senso del comune, di soldi dei risparmiatori del credito. Però ecco, di fronte a questa situazione, devo dire, non voglio entrare in polemica con, per esempio, gli altri partiti del centro-sinistra con cui comunque sono in continuo dialogo. Però evidentemente la situazione di dono fortemente condizionato e condizionante è stata molto ricattatoria, nel senso che se uno rispondeva di no, si trovava contemporaneamente costretto a dire di no a un regalo di 5 milioni di euro alla città. Non era facile. Posto peraltro che non si capiva ancora esattamente il progetto dove voleva andare a parare, non si conoscevano molto bene gli orti storici, il progetto in realtà non era ancora sulla carta, quindi poteva essere anche il progetto più bello del mondo. Poi per fortuna non è stato così. Lì però al momento secondo me si è posto un punto politico fondamentale, cioè che a mio modo di vedere riguarda la relazione tra il comune, istituzione e un donatore. Il punto fondamentale è questo, che un qualsiasi dono che provenga da un privato non può essere accettato con tutte queste condizioni dal comune, in quanto il comune deve rappresentare il benessere della città. Ovunque un dono sia posto così condizionato, il comune deve interloquire in modo dialettico con questo operatore, diciamo, dialogando con la cittadinanza, per capire se questo dono effettivamente la città lo vuole oppure no. Cosa che al momento, quando si è dovuto decidere di farlo, di dire sì o no, non era assolutamente chiaro. Quindi ho posto il mio no esattamente per questo motivo. E ricordiamo che ci sono solo due consiglieri comunali che hanno detto di no. Sì, esatto, io e Simone Paganoni della lista Bruni. Si è parlato di mistero legato agli orti storici. Dove sono questi orti storici? Perché in realtà molti cittadini bergamaschi passano accanto agli orti storici tutti i giorni non sapendo che stanno passando accanto agli orti storici. Sì, esatto. Gli orti storici sono un'area che è, diciamo, compresa tra il Parco Suardi e via San Tommaso, in quello spazio che effettivamente è nascosto da un muro di case da un lato e dal muro del Parco Suardi. Però uno spazio che dalle fotografie aeree effettivamente risulta particolarmente anche grande e già dalle foto aeree affascinante. Poi i cittadini si sono resi conto che si tratta di uno spazio davvero magico per certi aspetti. Però vorrei dire anche questa cosa molto rilevante, cioè che quando sono cominciate le contestazioni da parte del comitato non era scontata l'immaginario pubblico che avrebbero creato. Perché? Perché da parte chiaramente di chi questo dono voleva portarlo avanti si è posta subito, immediatamente, la questione che chi avrebbe protestato sono dei residenti che per interessi particolaristici, cioè per difendere il loro piccolo terreno, sarebbero stati contro un'opera che invece era per tutta la città. E quindi è il fatto che comunque questi orti fossero piuttosto nascosti rendeva questa posizione politica anche piuttosto forte agli occhi della città. Per fortuna invece, a mio modo di vedere, il comitato, di cui pure, diciamo, non faccio parte, nel senso che ci ho dialogato però non sono membro attivo, a mio modo di vedere ha lavorato benissimo, nel senso che è riuscito a fare della questione, cioè del fatto che non era possibile in quello spazio così bello che per il volere di pochissime persone si costruisse una struttura che peraltro di fatto di cui non c'è questa utilità a Bergamo, si volesse dare la colpa dell'impossibilità di fare questa struttura a degli interessi particolaristici. In realtà no, aprendo questi orti storici al pubblico nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, e facendo una questione di tutta la città, sono riusciti invece simbolicamente a fare di questi orti una questione che riguardava tutta la città, e anzi interessi particolaristici erano di coloro che volevano per forza realizzare quella struttura. Farò una domanda molto stupida. Chi è il proprietario degli orti? Questa è stupida fino a un certo punto. Il proprietario degli orti... Allora, questi orti appartenevano alle suore canossiane. Con la vendita del complesso chiamato Ex Canossiane, che è un complesso che sta, diciamo, tra via Pignolo e via San Tommaso, in quell'angolo, insieme a quella struttura è stato venduto anche larga parte del terreno su cui ci sono gli orti. È stata venduta questa immobiliare, immobiliare passerella, su cui peraltro si potrebbe andare più a fondo, però per adesso chiamiamo, insomma, è semplicemente l'immobiliare passerella. Ora qui sarò molto sintetico, semplicemente la questione della Sala Gamec è legata fortemente a un'altra trasformazione edilizia, che è quella appunto dell'ex Canossiana, nel senso che il piano di governo del territorio prevede che il proprietario di quel complesso, cioè attualmente l'immobiliare passerella, possa trasformare quel complesso in appartamenti. A fronte di questo diritto alla ristrutturazione di quell'area e a vendita, diciamo, con appartamenti, l'immobiliare passerella avrebbe venduto, cioè e ha effettivamente venduto, quella parte di terreno su cui ci sono gli orti al comune, cioè più che venduto, concesso in cambio del diritto di trasformazione di quel complesso. Quindi così facendo, diciamo, il comune ha fatto partire la convenzione con passerella, dando i diritti di proprietà. Allo stesso tempo acquisito, o aveva acquisito perché adesso non si sa più bene niente, però ha acquisito quel terreno per farci sopra la Sala Gamec. Quindi questa è l'unione, diciamo, dei due aspetti. Scusa, sarò un po' ingenuo, ma è normale che il comune mercanteggi su scelte di questo tipo? Allora, questa è la questione è molto complessa, nel senso che il tipo di urbanistica che oggi prevale, cioè il PGT è una sorta di urbanistica contrattata, in cui effettivamente spetta al comune contrattare con i privati proprietari delle aree o gli edifici, contrattare da un lato ipotesi di ristrutturazione, edificazione, e dall'altro ottenere in cambio dei servizi piuttosto che delle aree verdi, proprio di questo tipo. Io ho mosso una serie di critiche a questo tipo di urbanistica, chiamata urbanistica contrattata, perché fondamentalmente è fomentata dalla necessità da parte del comune di ottenere delle risorse per pagare le proprie spese tramite appunto quelli che sono chiamati oneri di urbanizzazione, cioè quanto questi proprietari versano al comune in cambio dei diritti edificatori. Questa è una sorta di droga che tende a aumentare l'edificazione in una città. Quindi questo è in realtà normale. Purtroppo è normale. Che gioia. Quindi l'interesse dell'immobiliare passerella in questo, non capisco dove stia. Poi ci sono delle sorprese. A questo punto ci sono delle sorprese. Perché? Perché, come sappiamo, diciamo, questi orti storici, oltre alla struttura, che è il primo punto nevralgico e anche simbolico che si contesta, dovrebbero essere uniti al Parco Suardi. Ora, qual è il problema? Che per poter valorizzare questi appartamenti che l'immobiliare passerella vuole realizzare in quel complesso, l'idea è stata un po' questa, di dire: facciamo una bella strada nel Parco Suardi. Quindi fondamentalmente è come se a un certo punto quell'area lì venisse tutta messa a soqquadro. A fronte dell'unione di quell'area con il Parco Suardi si ha la possibilità però di ritrasformare tutto, e posto peraltro che c'è bisogno di un accesso viabilistico alla nuova struttura Gamec, si dice: beh, a questo punto facciamo una strada che possa servire anche quegli appartamenti che la passerella sta per realizzare. Ed è chiaro che questo si tratta di un interesse dell'immobiliare, perché quella strada permette di risolvere una serie di problemi viabilistici della zona e quindi di alzare i prezzi di questi appartamenti. Quindi le due partite evidentemente sono molto legate. A me non piace tirar fuori nomi e cognomi delle persone, cioè, quindi non tirerò fuori il nome, parlo del peccato ma non del peccatore, mettiamolo in questi termini. In realtà il problema è anche che queste cose sono molto legate, in quanto da un lato l'architetto che è stato incaricato di preparare il progetto per la nuova Sala Gamec è lo stesso architetto che ha fatto la prima, diciamo, la progettazione preliminare per la trasformazione dell'ex Canossiane. Inoltre, dal punto di vista degli assetti proprietari, qui non possiamo spingerci oltre, sennò poi arrivano querele o robe di questo tipo, però è vero che, Passarella è in parte, vabbè, questo lo sappiamo, è accertato, è legata a Gruppo Zunino. Per Gruppo Zunino intendo un gruppo che, tramite anche Giuseppe Grossi, l'imprenditore Giuseppe Grossi, che era all'interno del Consiglio di Amministrazione del Credito Bergamasco, è stato messo sotto inchiesta per la questione riguardante il riciclaggio di denaro. Sabe o que? Tábua de tiro-álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito até parece. Sabe o que? Tábua de tiro-álvaro. Insomma, uno scenario non molto chiaro nel quale noi potremmo dibatterci per anni, fondamentalmente. Sì, è anche molto interessante, perché chiaramente poi uno scenario di questo tipo è molto sintomatico di come è oggi non soltanto l'urbanistica delle città, ma anche in un certo senso l'economia urbana. E quindi diciamo che la distruzione di spazi verdi passa necessariamente da queste cose, da queste persone che certo. Hanno modo di fare valere degli interessi che si possono anche definire di parte. Certo. Insomma. Poi, io, a dire la verità, non insisterei troppo sulla questione degli spazi verdi, nel senso che potrebbero benissimo essere dei spazi verdi vuoti, senza nessun interesse, come dire, dal paesaggistico piuttosto che storico, naturalistico, per cui può avere senso anche occupare quello spazio all'interno della città. Però nel caso specifico gli orti storici non sono un certo quel tipo di spazio verde. Il problema, secondo me, più generale riguarda gli assetti proprietari e chi decide rispetto al futuro urbanistico economico della città. E a questo proposito mi chiedo se deve essere ogni volta necessario che per qualsiasi questione si debba costituire il comitato contro la costruzione del nuovo stadio nel parco agricolo, il comitato contro la costruzione e l'ampliamento della GAMEC negli orti, il comitato contro la costruzione dei garage sotto la rocca. E ci sono anche stati quelli del comitato che si è opposto alla costruzione delle due torri presso l'ex SACE, che sono stati peraltro intimati ad un pagamento di 8 milioni di euro come danno. Sono stati accusati di aver danneggiato in non so che modo i progetti del PGT del comune, quindi è stata avanzata penso una richiesta di risarcimento di 8 milioni di euro nei confronti di costoro. Possibile che debbano essere i cittadini a doversi necessariamente interessare di politica su queste questioni? Ma allora, la mia posizione è che, come dire, la politica, dal mio punto di vista, ma penso che in generale si possa dire, è uno degli aspetti comunque della partecipazione alla vita pubblica, allo spazio pubblico. Poi ci sono mille modi diversi di far politica, dal fare la trasmissione radio, essere in consiglio comunale, a far parte di un comitato. Quindi il fatto che i cittadini si occupino delle questioni della città per me è soltanto bello ed è un bene. Il problema quindi in sé, il fatto che esista partecipazione è una cosa molto positiva dal mio punto di vista. Il problema è che, come dire, ci può essere comitato e comitato, e molto spesso secondo me la differenza si gioca sul filo, perché appunto comitato dà molto anche l'idea di una difesa del proprio piccolo, del proprio particolare, e a Bergamo siamo anche abbastanza abituati a avere questo forte particolarismo che peraltro, diciamo, la Lega riesce a incarnare molto, molto bene a livello territoriale. Quindi invece un comitato come quello degli Orti è riuscito a parlare a tutta la città, è riuscito a fare di quella questione una questione emblematica e simbolica di problemi che riguardano tutti, non soltanto i residenti di quell'area. E questo è un passaggio che non era scontato e che secondo me è proprio decisivo. Sì, anche perché nel comitato degli Orti ci sono persone che sono di appartenenze politiche completamente diverse. Certo. Cioè, ha incluso c'è la signora Malaspina, che è la contessa, è una contessa, una nobile. Contessa Suardi. C'è la contessa Suardi, c'è il militante di un partito che magari no, adesso non si può dire quale sia, però non è una cosa che c'entri con la politica schierata, è una cosa che viene dal cuore delle persone, diciamo dalla coscienza delle persone. E a proposito di comitati, Simone Bertasa ha intervistato Nicola Negrello, portavoce del comitato per la salvaguardia degli orti storici di San Tommaso, e ce lo sentiamo. Abbiamo incontrato un esponente del Comitato per la salvaguardia del Parco Suardi e degli Orti Storici di Bergamo. Ciao Nicola. Ciao a tutti. Volevo premettere che il Comitato è nato in modo assolutamente spontaneo, è composto in modo eterogeneo, ci sono giovani, pensionati, personalità, sono residenti del luogo e non residenti. Abbiamo già raccolto più di 4.000 adesioni su Facebook e più di 5.000 firme a mano. È un lavoro stato molto difficile, ma grazie all'aiuto di tutto il Comitato ce l'abbiamo fatta. E il comitato è sorto in corrispondenza del problema delle serre espositive della GAME, che voleva costruire appunto sulla porzione denominata Orti Storici di San Tommaso. Il problema in questione, a mio parere, è che in un territorio in centro a Bergamo, che si è preservato da 600 anni ad orto, volevano cementificare. L'opinione del comitato non è assolutamente contro l'arte o contro un ampliamento della GAME, ma sicuramente l'opinione del comitato è che l'ampliamento della GAMEC non debba essere fatto in quel luogo. Quel luogo è un luogo magico, protetto, e come il comitato richiede dovrebbe essere regalato alla cittadinanza dal comune, che ormai dopo la convenzione con la passerella immobiliare è entrato in possesso, incorporarlo al Parco Suardi e creare veramente un grande parco urbano. Nicola Negrello, spiegandoci le ragioni della nascita di questo comitato, ci fa focalizzare un po' meglio sul problema degli orti storici di Bergamo. Innanzitutto, il comitato, com'è strutturato? Per tutti noi è stata una cosa veramente nuova. Abbiamo pensato giustamente di strutturare il comitato in un organigramma. Abbiamo eletto un presidente, che è Massimo Ostini. Sostanzialmente gli addetti stampa siamo un po' tutti, perché prima di rilasciare un comunicato stampa ci troviamo sempre col comitato e valutiamo bene che sia appoggiato o da tutto il comitato o che varie modifiche vengono poi eseguite prima di rilasciare la dichiarazione ufficiale. Un esempio di cittadinanza partecipativa in cui si pone il bene comune come obiettivo di un grande lavoro. Avete organizzato qualcosa di particolare per fare conoscere questo problema alla città? Allora, uno dei primi obiettivi del comitato è stato sicuramente quello di aprire gli orti storici a tutta la cittadinanza in giornate particolari. Il problema degli orti storici è che è stato un luogo sempre stato chiuso alla cittadinanza, nessuno ha potuto mai vederlo perché appunto una parte chiusa tra via San Tommaso e il Parco Suardi. quindi era effettivamente chiuso. Dunque, uno spazio verde importante in una città effettivamente un po' tartassata dall'inquinamento, dal traffico. Allora, bisogna precisare che Bergamo, se si esclude la porzione di Parco dei Colli, è una delle città che nel perimetro urbano, cosiddetto delle antiche muraine, è una delle città appunto che ha meno spazi verdi urbani. Considerando poi il fatto che Bergamo appunto è una città posta nel centro della Lombardia, che è uno dei luoghi al mondo più inquinati, e a detta di molte agenzie di stampa Bergamo è una delle città in Italia con più presenze tumorali, il comitato crede che i pochi spazi verdi rimasti integri vadano preservati. Se si vuole fare un ampliamento di un museo, quindi se si vuole cementificare, noi suggeriamo di usare il cemento buono, e il cemento buono a nostro parere è quello che c'è già. Fra l'altro, a pochi passi dal Parco Suardi vi è presente la caserma Montelungo, che è un edificio strutturalmente a mio parere molto più adatto a ospitare un museo, perché ha pure un grosso cortile interno che potrebbe fungere da parcheggio per i vari visitatori, ed è un edificio completamente in disuso. Il comitato per la salvaguardia del Parco Suardi e degli orti storici di Bergamo ha pensato ad una proposta alternativa da proporre per risolvere questo problema. Beh, noi crediamo che il tema degli orti in città sia un tema di grande attualità in molte realtà urbane del nostro pianeta. Lo è alla Casa Bianca, dove Barack Obama sta appunto proponendo degli orti per valorizzare appunto la concezione di orto e terra. Lo è sui tetti delle metropoli, nei loro spazi residenziali che sempre più spesso vengono coltivati dalla gente dei quartieri, segno di una sempre più nuova attenzione al valore della terra e alle disfunzioni ormai evidenti dell'urbanizzazione. In questa porzione di orti, se verrà poi come noi ci proponiamo integrata al Parco Suardi, vorremmo affidare appunto la coltivazione di questi orti storici a delle cooperative, quindi il pensionato che vuole coltivare il suo appezzamento di orto potrà farlo liberamente. Si potrà anche creare un percorso didattico per gli studenti. Sappiamo che Ermanno Olmi 2 anni fa ha girato il film Madre Terra, che ci spiega appunto l'importanza per le nuove generazioni di capire cosa vuol dire usufruire della terra in modo ecocompatibile. Quindi un percorso didattico con le scolaresche, le quali possano visitare le culture e sperimentarle direttamente. Un luogo nel quale conoscere anche uno spaccato della storia della città, che in questo luogo ha sempre prodotto culture. Un'altra proposta molto interessante era di creare poi un percorso pubblico, assolutamente però pedonale, lungo la roccia, che colleghi gli edifici già esistenti del museo alla nuova sede della Montelungo, la nostra via d'acqua. E lungo il percorso installiamo opere di artisti contemporanei, artisti di land art, cioè di quell'arte che ha capito che la terra e i paesaggi sono materiali fondamentali della coscienza e delle estetiche di questo periodo storico. Quindi la nostra domanda è: perché costruire un edificio se il prezzo è la scomparsa di una porzione consistente degli orti storici? La nostra controproposta è una proposta semplice, realizzabile in tempi brevi, rispettosa delle richieste di tutti, creativa e a nostro parere molto più attuale. In più voglio citare che la porzione di orti che verrà integrata al Parco Suardi è molto ampia, e l'orto botanico di Bergamo, che a mio parere è amministrato molto bene, ma è creato in un punto veramente scomodo, dove anche una persona con handicap non può accedere, potrebbe avere una sua succursale appunto negli orti storici, creando un piccolo orto botanico in questa porzione. Quindi una soluzione che è sicuramente molto più fascinosa, molto più bella, forse molto più pregnante d'artisticità che non appunto la soluzione proposta dal comune, che voleva appunto rinchiudere delle opere d'arte in un muraglione di cemento. Sì, credo che delle stecche di cemento alte 8 metri più o meno, do misure indicative, alte 8 metri, lunghe 70 metri e strette 10 metri non siano sicuramente il luogo più adatto per esporre l'arte contemporanea. Noi pensiamo che il museo non deve essere antagonista degli orti, ma deve usarli come preziosi e insostituibili alleati. A mio parere lo esigono il luogo, che è sacro, la sua storia, la sua unicità. Lo esige pure la contemporaneità, lo esige l'arte, che quando è autentica e non pura celebrativa e sempre coscienza attenta del presente e del suo tempo. Il Comitato per la salvaguardia degli orti storici qui a Bergamo ha fornito una serie impressionante di alternative all'idea originaria, all'idea contestata. E quali risultati sono stati ottenuti, Nicola? Dimmi un po'. Beh, per quanto riguarda invece i risultati conseguiti, siamo ancora un po' sul chi va là, perché abbiamo accolto con molta gioia la notizia che il Kreberg, tramite le parole del presidente Cesare Zonca, rinunciava alla donazione, ma siamo ancora un po' sospettosi, perché non vorremmo fosse una tecnica per accelerare le procedure della sovrintendenza, che dovrebbe valutare in 60 giorni e come tempo limite minimo a 60 giorni, quindi non 30, 20, 15, 3 giorni, ma 60 giorni. A nostro parere la sovrintendenza dovrebbe prendersi tutti i 60 giorni per valutare bene se questa sala espositiva sarebbe ecocompatibile con il territorio. A nostro parere non lo è, e quindi vogliamo che la sovrintendenza studi bene la cosa. Speriamo quindi che, tenuto conto delle ragioni e anche del buonsenso del Comitato per la salvaguardia degli orti storici del quartiere San Tommaso di Bergamo, la sovrintendenza non faccia a tutte queste persone, a tutti questi cittadini, uno scherzo, direi, di pessimo gusto. Ringraziamo Nicola Negrello. No, grazie a voi, soprattutto per averci dato la possibilità di spiegarvi le nostre ragioni, anche perché sugli organi di stampa bergamaschi, quali l'Eco di Bergamo, talvolta il contraddittorio viene negato. Cioè, adesso, sinceramente, se il comitato non ci fosse stato, si sarebbe passata sicuro. Sì, nel senso che comunque anche noi in Consiglio Comunale eravamo contro, vabbè, le nostre forze anche a livello di opinione pubblica, a livello mediatico, sono quelle che sono. Sviluppi ulteriori sulla questione nell'ultimo periodo ce ne sono stati? Sì, ce ne sono stati, nel senso che appunto... Visto che il comitato accusava appunto il Kreberg di fare alcune manovre un po' strane per accelerare i tempi in cui... Sì, nel senso che di fatto ci siamo trovati in una situazione in cui il Kreberg, per bocca in particolare di Cesare Zonca, il presidente del Kreberg, ha deciso di ritirare il dono. Ora, a livello... diciamo, la giustificazione data è che il comune non aveva collaborato a sufficienza, ma se posso, diciamo, dire quello che penso, io credo che invece il Kreberg ha fatto ha preso questa decisione per un motivo ben più rilevante rispetto a passaggi amministrativi, perché si è reso conto del fatto che quel dono probabilmente la città, o almeno gran parte della città, non lo voleva, quindi piuttosto che arrivare a un danno d'immagine di questo tipo, evidentemente ha preferito ritirarlo. Spero, il problema è che non è ancora detta l'ultima parola, perché so che proprio nei prossimi giorni il sindaco Tentori dovrebbe vedere Zonca per convincerlo invece a ritirare fuori questa cosa del dono. Cioè, rischia di trascinarsi ancora per molto tempo questa questione. In ogni caso, se anche il dono venisse ritirato, in quell'area la problematica continua, perché comunque da un lato c'è la trasformazione dell'ex Canossiane, dall'altro c'è il problema comunque di questi orti storici, che cosa farne, perché poi paradossalmente cosa è successo? Che se la trasformazione dell'ex Canossiane andava avanti, a quel punto quell'area diventava del comune, perché ci voleva fare la struttura. Adesso che il comune non ha più questa struttura da fare, il rischio è che decidano, in maniera secondo me totalmente sbagliata, di dire vabbè, allora non ce ne frega niente di questi orti storici, che rimangano privati. Il che sarebbe, a mio modo di vedere, sbagliato, perché invece, come anche il comitato dice, questi orti vanno, e come il comitato ha fatto peraltro nell'ultima settimana, questi orti vanno aperti, vanno resi pubblici e vanno uniti al Parco Suardi. Peraltro l'idea di una sede staccata dell'orto botanico di Bergamo potrebbe anche essere la più calzante, visto che l'orto si trova in cima alla zona di Colle Aperto, c'è una stradina d'accesso molto piccola, certo. Non è grande. Ma attualmente l'area è fabbricabile o no? Con il PGT approvato, in realtà quell'area è edificabile, nel senso che c'è proprio quello che si chiama un ambito di trasformazione, per cui vi è una variante urbanistica che permette di costruire. Quindi ad oggi quella zona è fabbricabile? Ad oggi quella zona è fabbricabile. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo tem. antes posso falar, pois eu sei. Eu tiro. Questo contraddice alcuni vincoli ambientali che erano stati, diciamo, indicati negli anni 60, negli anni 50. Sì, lì poi il problema è che chiaramente di fronte a una forzatura di questo tipo anche tutti gli organismi di garanzia di controllo sono travolti. Quindi la Commissione Paesaggio, a mio modo di vedere, non ha potuto fare il lavoro che doveva fare, e uno dei componenti della Commissione Paesaggio, Antonio Galizzi, l'ha sottolineato. Così come la sovrintendenza, da quanto si dice, ha dato in realtà parere favorevole a questa struttura, perché come sappiamo in queste situazioni anche il sovrintendente può non voler, per rapporti, per relazioni politiche, mettere per forza il bastone tra le ruote di fronte a una situazione di questo tipo. Non dico che fa male il proprio lavoro, dico che evidentemente ogni scelta può avere motivazioni di vario tipo. Deve essere ben ponderata, insomma, sotto tanti punti di vista. Deve essere ben ponderata, tanti punti di vista. Ma ci dico, a livello politico la mediazione ci sta sempre, non è quello il problema. È chiaro che nel momento in cui c'è qualcuno che spinge in modo, come dire, forsennato, perché questa cosa deve realizzarsi entro un certo tempo in quell'area, così evidentemente tutte le garanzie anche paesaggistiche saltano completamente. Vorrei però sottolineare che il responsabile politico di tutto questo è Tentorio, la giunta Tentorio. Cioè il Kreber, voglio dire, è un privato che, voglio dire, possiamo avere le opinioni che vogliamo sulle singole persone del Kreber, sul Kreberg, però ha fatto una proposta, la responsabilità politica è del comune che ha voluto prendere questo dono in maniera così condizionata. Quindi secondo me la responsabilità politica è loro. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir, quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda que é do povo, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz. Nonostante la Lega, una giunta senza palle. Ma forse proprio per la Lega, una giunta senza palle, direi. Anche perché adesso l'ultima cosa, come la Lega poi da queste cose poi ne esce sempre, non si sa bene perché bene, ma ha fatto una roba incredibile. Cioè ha detto, due giorni prima, ha detto noi siamo contro la strada del Parco Suard e poi in Consiglio Comunale hanno votato a favore. Cioè una cosa che io non ho mai visto, una roba che se fosse successa in un'assemblea di classe al liceo, quella persona sarebbe stata presa per il culo per l'eternità. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando in agô. Você que ouve não fala. Io ho un'altra domanda per Pietro, un po' banale anche questa, un po' ingenua. Chi decide dove si può fabbricare? Beh, decide il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è l'organo sovrano per decidere. Il PGT è appunto lo strumento principale. Chiaramente il PGT viene proposto comunque dalla giunta, che è l'organo di governo della città, poi però il Consiglio Comunale che è sovrano rispetto a queste scelte. Siccome abbiamo visto già in passato delle avvisaglie di queste problematiche, io mi riferisco in particolar modo ad un altro grave problema, che è quello della Rocca, con cui con te che sei di Verdi mi piacerebbe in futuro parlare un'altra volta. Quindi cosa ci potremmo aspettare dal futuro? Quale sarà la prossima zona che verrà toccata? O quale sarà il prossimo comitato che nascerà? È già nato il comitato per lo stadio, cioè contro lo stadio, contro la città dello sport. Io devo dire la verità, secondo me la città di Bergamo, cioè non bisogna fare l'errore di pensare che la difesa del verde piuttosto che di una popolarità comunque delle decisioni sulla città sia necessariamente, voglia dire necessariamente stoppare qualsiasi iniziativa. Il rischio è chiaramente che invece nasca un comitato in ogni situazione possibile e immaginabile. non è quello in realtà lo spirito, secondo me, del Comitato degli Oro. Lo spirito del Comitato degli Oro è dire: vogliamo una partecipazione popolare alle trasformazioni, alle scelte delle città. Questo è l'elemento fondamentale. Quindi in realtà spero che si sviluppino comitati a difesa di realtà particolarmente pregiate, ma anche, come dire, dei comitati piuttosto che delle associazioni che sviluppino anche, come sta facendo per del resto il Comitato degli Orti, delle progettualità su delle aree, che può voler dire anche ristrutturare, per esempio, una progettualità sulla caserma Montelungo. Quindi un'intelligence superiore, qualcuno come che guardi dall'alto la città e ne abbia una coscienza diversa e non particolare come in questo caso. Sì, ma anche dal basso, non necessariamente dall'alto. Cioè, io sono convinto che le persone che fanno parte del Comitato degli Orti conoscano quella zona molto meglio di chi vuole costruire in quella zona. Così come possiamo fare tanti esempi anche paradossali, ma la conoscenza molto spesso può partire da chi vive un territorio e si proietta poi in decisione politica. È chiaro che è un percorso molto più difficile rispetto a calare dall'alto una scelta, però secondo me la dimensione interessante della politica cittadina è questa. È interessante anche perché è un tipo di politica che sulla sfera nazionale non si riesce a fare, perché ormai è talmente mediatica, è talmente legata comunque a una presenza sui mass media che è molto difficile. Invece a livello, secondo me, locale si possono sperimentare ancora delle cose interessanti. Io ho un contributo di Italia Nostra che evidenzia come il triangolo di verde interno compreso tra le storiche cortine edilizie della via Pignolo e della via San Tommaso, degradante verso il torrente Morla, sia stato miracolosamente preservato dall'edificazione e sia giunto fino a noi. Verrà preservato anche da Kreberg? Si salverà da questa giunta?